Senti che voce che ho oggi. Ehi, senti che voce che ho oggi è pazzesca. Ehi, l'hai alzata la voce, vero? Mi fanno male le orecchie. Sai perché? Perché tutto questo è imbarazzante. È imbarazzante. È imbarazzante. È imbarazzante. È imbarazzante. È imbarazzante. È imbarazzante. È imbarazzante. È imbarazzante. È imbarazzante. È imbarazzante. È imbarazzante. È imbarazzante. Così bella non l'ho mai avuta. Non capisco perché. La senti questa cassa? È imbarazzante. È imbarazzante. È imbarazzante. È imbarazzante. È imbarazzante. Oh, scusa, ferma tutto. Ferma. Grazie. Senti questo silenzio. Lo senti questo silenzio? È imbarazzante. È imbarazzante. È imbarazzante. È imbarazzante. È imbarazzante. È imbarazzante. È imbarazzante. È imbarazzante. È imbarazzante. Però una bella voce oggi. Non ho dormito per niente. Sai perché? Yes, yes, yes. È imbarazzante. È imbarazzante. È imbarazzante. È imbarazzante. È imbarazzante. È imbarazzante. È imbarazzante. È imbarazzante. È imbarazzante. È imbarazzante. È imbarazzante. È imbarazzante. La parola imbarazzante a volte, è imbarazzante, come questo disco. Hai fatto molto bene a comprarlo. Non perché io ci guadagnerò dei soldi, no, no. Semplicemente perché è imbarazzante. Imbarazzante. Imbarazzante. Imbarazzante.